È nato un amore, nato e a faccio piangere, sì signore. 99 posse, tammuriata. Abbiamo un ospite speciale stasera. La? Meglio che non ve lo diciamo, va. Roma è sera, siamo sempre epicanti, ci sanno battite, soffrono. cronica. Tutto è catastrofico nell'evento mediatico. L'onda dei mass media che mi affoga dentro all'anima. Ecco il politico con fare diplomatico. Risolve più problemi del docente matematico. Ecco il polemico che soppone al benevolo. E te fa il programma sul benessere economico. Chi ti vuole presente solo la richiama elettorale. Vedere sui problemi del conflitto familiare. Pensando perfetto ma non pensando futuro. Mi sembrano ingannevoli. Mi stappia per culo. Pensa per te che io ci penso da me. Mangia la vai mai. Pensa per te che io ci penso da me. Mangia la vai mai. Pensa per te che io ci penso da me. Papà, pensa per te che io ci penso da me. Fa la predica, con chi c'è la comunica, con l'arma giornalistica. Todo sostentabile, todo condannabile. La delle giornalista manna non sono scrivibile. Ecco il politico, con fare diplomatico. Risolvo ogni mistero con una farsa da ecumenico. Una cosa è certa, che vi piaccia o vi indigna. La battuta è ora per fermo la caccia se scade né tu. Che ti vuole presente sulla richiama elettorale. Vuole far tutto lo vuole fu. Fare la morale. Sanno del riciclo ma me tengono all'oscuro. Sembrano ingannevoli. Me sappia per culo. Pensa per te che io ci penso da me. Mangia la che io ci penso da me. Mangia la vai mai. Pensa per te che io ci penso da me. Papà, pensa per te che io ci penso da me. Non sia pacificata, lo vedo quando entro nella fredda mattinata. Porto mia figlia a scuola col suo bel sorriso e ogni incontro sulla via mi mette sull'avviso. Clacson, semafori, sguardi amici e nemici. Se passa sui pericoli sgambettando in bici e gli occhi ancora pieni di fantasia e speranza a crederci nel mondo. Ce ne vuole di incoscienza. La lascio in classe, mi commuove il cuore vederla lì sola col suo buon umore. Lei mi insegna a vivere la scaccia, la miseria. Ogni cosa è un gioco, ogni gioco una cosa seria. Tra lupi di Siberia e sirena loop sulla Prenestina su decine di notizie scoop. Inizia la mattina, una vecchietta prega. Io sono un compagno tra pischelli che hanno fatto sega. Ne fendo un gruppo gettati su un gradino. Giocano alla mafia per vantarsi col vicino. Ma cosa hanno in testa? Questo mi infastidisce. L'aria è un po' fascista ma avranno il culo a strisce. Loro per primi, lo vedi che casini. Il delitto più grande è abbandonare i bambini. Conosci i genitori e sai cosa non va a queste vittime minori di ingannevoli pubblicità. Piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Gerani. Qui scava fa investimenti umani. A 100 celle city, una vita viene su. Tra banche BMW, col center e tattoo. Piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Gerani. Qui scava fa investimenti umani. A 100 celle city, una vita viene su. Tra banche BMW, col center e tattoo. Oggi mi sento strano, mi sento bene. La vita viene su in questo quartiere, mi sento forte. E quanto avrò da dare? Che cos'è? Che cos'è? È il mio istinto animale. City, it's my hometown. City, my hometown. Ci sono brasiliani che sono brasiliane. Ci sono tranche tarda, sono carri bestiame. Ci sono primitivi abitanti della piazza che ti ammazzano nel traffico per una precedenza. E dove vanno tutti? Ognuno al proprio posto. Vanno appresso al mondo a vendersi a basso costo. E dove va il mondo allora? Così incoerente, discesa almeno un'ora tutta questa gente. Io scendo per le scale del centro commerciale. Scendo bello e gioviale nel nuovo mercato rionale. Non mi freghi, meglio mantenersi allegri. Nella testa c'ho Selene, bianca neve e toni negri. Nella strada vado, cerco il mio anonimato. Fischietto tra la gente per passare inosservato. Ma saluto chi passa a destra e chi a sinistra. È pieno di fratelli qui se hai una buona vista. E io imparo a vivere, niente mi può fregare. Queste borgate sono anche zone partigiane. è grande la community e si allarga la famiglia. Io vado adesso in nursery, mi è nata un'altra figlia. Piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Cerani, qui stiamo a fare investimenti umani. A 100 celle city, una vita viene su, tra banche e BMW, col center e tattoo. Piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Cerani, qui stiamo a fare investimenti umani. A 100 celle city, una vita viene su, tra banche e BMW, col center e tattoo. Oggi mi sento strano, mi sento bene. La vita viene su in questo quartiere, mi sento forte. E quanto avrò da dare? Che cos'è? Che cos'è? È il mio istinto animale. City, it's my hometown. City, my hometown. Altre forme di vita dei Blu Vertigo. Un uomo intelligente, mettendosi gli occhiali, ha fatto distinzione tra gli esseri animali e quelli vegetali. In terza media scopro che i regni sono cinque, fatti a loro volta da generi molto diversi tra loro. Se non esistessero i fiori, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero i pesci, riusciresti a immaginarlo? In altre zone di questo universo è facile da realizzare. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Sembra strano che solamente noi siamo stati generati dal caso. Questo è un po' egoista e poco fantasioso, e forse un po' cattolico e poco divertente, molto presuntuoso, molto limitante. Se non ci fossero i funghi, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero le alghe, riusciresti a immaginarle? Le stelle che riesco a vedere sono una piccola percentuale. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio. Altre forme di vita. completamente ovvio che esistano. Altre forme di vita, più forte, altre forme di vita, ancora altre forme di vita, sì, altre forme di vita, l'ultima, altre forme di vita. Thank you very much indeed. Va bene, la interrompiamo qui perché ai noi, diciamo, a volte non tutto va come ci aspettiamo. E si fanno anche di questi live. A proposito di live, abbiamo qui un ospite. Eccolo! Ecco l'ospite. Che è arrivata la Gigia, è arrivata. Con la bicia o a piedi? Gigia. È arrivata a piedi o no? A piedi, con la macchina. Con la macchina, perché mi devo portare via tutto sto ambaradano di cose. Che dovete sapere che tal Frodo noblogs.org e la Gigia qui presente partecipano insomma, hanno un progetto musicale che si chiama Morfema, che però non pubblicizziamo particolarmente esplicitamente. Fatto sta, avete sentito prima i Blu Vertigo, che in realtà bisognerebbe dirli un po' sottovoce perché diciamo perché che sono mainstream. Mamma mia, cioè, mamma mia davvero. E comunque e sono anche MTV da un bel po' di anni. Allora, per chi fosse, mi chiedono un poco in giro, un po' di contatti su questi social network nuovi, ci chiedono se è ripartita la Micra. E sì, è ripartita la Micra, che è un messaggio in codice. Chiaramente, fatto sta, avete avuto modo di ascoltare i 99 possi. 99 possi? Vai, dici qualcosa tu. Che devo dire? Ah, adesso tra un po' arriveranno... Dopo i Blu Vertigo, quelli con il nome assurdo, che assieme al lancio obbligo per una sferetta è le luci della centrale elettrica. I cassonetti in fiamme fanno un odore strano. I nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti scappati dai condomini. Facevi risorgere binari morti e ricucivi i polsi a tutti. Facevi risorgere binari morti per portarci al discount a fare acquisti. Il problema, ripetevi, che sono stati ascoltati i frati e non i preti. Guardando i muratori che camminano sui tetti, fare ancora i nostri imbarazzanti progetti. Quei pianeti che ci precipitano in cucina e ci disfano i letti matrimoniali in cui dormiamo da soli, come cani investiti, come i bambini mangiati dai democristiani. Facevi risorgere i binari morti e ricucivi i polsi a tutti. Facevi risorgere i binari morti per portarci al discount a fare acquisti. E andiamo a fare la spesa là, la lotta armata al bar, la lotta armata al bar. Gli addetti alla fabbricazione del buon umore sono in cassa integrazione, le tue tanto attese mestruazioni e le rivoluzioni. E gli interessamenti per le persone più fatiscenti che incontri mentre crollavano i poster. E tu davi da bere a tutti i cani di Piazza Verde con i tuoi pianti e gli esaurimenti, le telefonate inconcludenti i nostri voti scarsi. Rifacciamo le tette ai nostri progetti scadenti, restaurando quei momenti quando ci lacrimavano addosso anche i soffitti. E tu correvi su chilometri di scontrini, ma non mi raggiungevi. E cosa racconteremo ai figli che non avremo di questi cazzo di anni zero? Tre nostre giornate che sono state ristrutturate, di tutti gli altri libertini che sono stati biodegradati, di quando sono arrivati gli artificieri e ci hanno disinnescati. E si fermavano i tram per deridermi, e si fermavano i tram per deridermi, e si fermavano i tram per deridermi, e si fermavano i tram per deridermi. E cassonetti in fiamme fanno un odore strano, e i nostri discorsi seri di ieri intercettati dai finanzieri. Gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti scappati dai condomini. E allora, qua si è avviata chiaramente una discussione. Arriva l'ospite e parla, tac e parla quando c'è la trasmissione. Va bene, a parte questo piccolo appunto, la domanda era interessante anche per chi fa un po' di radio, ci prova, stenti, cose, scalini, gradini, difficoltà, hard disk che partono via. La domanda è: chi sono veramente questi luci della centrale elettrica? Perché abbiamo visto questo fenomeno negli ultimi 2 anni a Roma? Chi sono veramente queste luci della centrale elettrica? In quanto gruppo, non in quanto musicisti, perché lo spessore tecnico della musica prodotta è alto. Quindi in termini compositivo la domanda. Cioè, come infatti sarà... la domanda che lui non lo sa, che voi in realtà non state ascoltando, ora magari lo facciamo anche avvicinare al microfono. In realtà è chi sono, non ci interessa chi sono di persona, chi sono compositivamente questo gruppo? Com'è possibile che... perché suonano bene comunque, suonare suona lui, che mi sa che c'è un leader in questo gruppo, però in realtà com'è possibile che al primo album un gruppo spacca così tanto? La vera domanda per transizione di fase è: quanto è importante la promozione in generale? E la produzione? La produzione che sta tutto il macchinario, anche la produzione, che la promozione è un po' la produzione, cara transizione di fase, ascoltatori, chiaro, cara transizione di fase, ascoltatori e ascoltatrici, salute e felicità abituali o meno. La domanda è: la domanda della 11ª puntata di Salute e Felicità è: quanto è importante la promozione e la produzione quando ti viene in testa di mettere su un progetto anche musicale? Ai vostri Lardo Certezza, il prossimo brano è di un altro gruppo che invece si è capito chi è, suona pure bello forte, sono i Zoo, e il brano si chiama Beata Viscera. We'll be right back. allora, questi qui erano gli Zoo. Abbiamo ricevuto qualche complimento, insomma, per questa canzone, che vi ricordo si chiamava Beata Viscera. Allora, sostanzialmente, senza far sentire la trasmissione a tutto quanto Centocelle, ahimè, per questo dannato esame di Stato di cui vi parlavo all'inizio di questa trasmissione, non sono andato a un evento che c'è stato qui a Roma, quindi il caro Frodo, anzi la cara Salute e Felicità, non vi possono parlare di una cosa errosica tanto, Salute e Felicità, però doveva studiare per l'esame di Stato. Abbiamo qui un ospite di prima, in realtà, quello di prima, che però era tipo due stanze in là per voi, lo sappiamo, però è molto estemporanea questa situazione, devo dire. È andato sabato sera al Forte Prenestina, all'Electrode, che è un festival di musica elettronica, a due giorni, bellissimo. Il primo giorno, tra le teste di serie assieme a Dalek, c'erano gli Zoo, che hanno proposto uno spettacolo chiamato Techno Performers. Bene, uno va a ascoltare un concerto degli Zoo sapendo la loro pazzia e il loro spessore musicale, comincia a immaginarti quale sarà. Beh, hanno fatto techno live, batteria, basso e sax e synth a manetta. Techno. Questo è lo spessore compositivo, esce fuori, e questo è appunto. Gli Zoo. E allora, io purtroppo, vi ripeto, ahimè, non c'ero, però mi sono perso. Con delle maschere di gomma. Mi sono perso precisamente gli Zoo che facevano techno con le maschere Prenestino, che in realtà fortuna vuole che le abbia sentite dalla finestra. Fatto sta, non è stato come andare all'Electrode a vedere gli Zoo che facevano electro, però adesso abbiamo il simpatico amico che prima ci ha detto che gli Zoo erano da paura, bla bla bla, ci ha incollato su MSN un delirio di roba, insomma, che poi magari seleziono e vi dico un po'. Su Zoo gli facciamo e vi facciamo sentire un altro gruppone che suona spesso il Forte Prenestino e che è davvero, se non sbaglio, sono della Repubblica Ceca, hanno oramai intorno a 50 anni e si girano un duo e si girano davvero l'Europa con sto furgoncino, basso e batteria, e infatti il loro genere è bass and drum. Lei è una batterista da paura. Loro appunto hanno una batterista da paura e un bassista da paura. Loro sono i Sabot e il pezzo si chiama Head to Head. Vi ripeto, Sabot, qualunque modo abbiate per trovare le canzoni di questo gruppo, prendetele. Bassista con gli occhiali. We'll be right back. Allora, avete potuto ascoltare i Sabbath, che naturalmente si scrive K-A-A-R-R-R. No, in realtà Sabbath si scrive S di Savona, A di Ancona, che arriva, B di... Bancona. Bancona, vero, o Banconi. Bancona, Bancona. Vero. O di Otranto, T di Torino, come la ruota della fortuna. Sabbath, segnateveli. Questo è l'unico sgarro che faremo, credo, durante la puntata di musica, di discostarci dalla musica italiana, però ogni tanto fa bene. Poi salutiamo chi ci ha chiesto, insomma, chi ci ha pompato su Izu e varie musica. Un altro, il prossimo album, scusatemi, è di Adriano Modica. Il pezzo si chiama il Paese dei Balordi. Lui è un artista reggino che adesso non so bene cosa stia facendo, però è a Bologna. È suonato nel Parco delle Nuvole Pesanti. Ah, ok, insomma, un artista che vi consigliamo. Io non lo conosco molto bene, però ho racimolato questa cartella da un computer di una mia amica, una storia allucinante, sempre una di quelle con cui studiavo per l'esame di Stato. Ho fatto sta, esce Adriano Modica e faccio ok, paf, pennetta. Questo brano si chiama Il Paese dei Balordi e poi magari, insomma, artista reggino lo spingiamo un sacco. Thank you. E allora, vi ripeto, lui era Adriano Modica e questo brano si chiama Il Paese dei Balordi, preso dal suo secondo album che è Il Fantasma ha paura del 2007. Direttamente dal mio spazio di Adriano Modica, il primo album, prendiamo questo estratto, il primo album si chiama Annanna, ovvero l'album di Stoffa, registrato tra il 2004 e il 2005 da Gianni Brancati, che ci ha suonato anche la chitarra elettrica, ed è uscito online il 18 dicembre 2008 per Trova Robato. Il secondo album si chiama Il Fantasma ha paura, è l'album di Pietra, uscito nel settembre 2007, sempre Trova Robato Audio Globe. Il terzo e l'ultimo ha un titolo segreto ed è l'album di Legno. Allora, se volete potete andare sul MySpace di Adriano Modica e leggere un altro po' di informazioni. Ah, infine conclude, ho finora collaborato con John Merrick, Marco Parente, Ulaanbaatar, Jennifer Gentle, Adama Nera e Mimes of Wine. Adoro il suo vintage perché mi ricorda quando non c'ero, conclude nel suo mitico MySpace, insomma, che è abbastanza preso a bene come MySpace. Il prossimo pezzo che sentirete è, vabbè, di uno delle icone, delle icone, delle icone, delle icone della musica italiana. Ah, non l'avevi già messo? Eh? Sì, no. Lui no. Ed è Non trattare di Vinicio Capossela. Buon ascolto a tutti e a tutte. Ricada su di te, non trattare, non ti soffermare, abbi cura del timore, se non chiedi non ti sarà dato, se non cerchi non sarai trovato, non sappia la tua destra che fa la tua sinistra, non gettare le tue perle ai cani, a chi non vede finché non ti sbrani. Per amore verrà divorato, chi all'amore un pasto si è dato. Babilonia la gran prostituta, che ha bevuto del sangue dei profeti, osso con osso, dente con dente, empio con empio, lo disperde il vento. Eccolo l'empio che viene gonfio d'orgoglio, chiomato come un cedro del Libano. Guarda lì, signore, latran come cani, escono la sera, sono tutti intorno alla mia casa, ma tu che sei la mia forza e la grazia, sei tu la mia roccia, arma del mio braccio, nel tuo amore mi farai avanzare, nel tuo amore mi farai avanzare. Distruggimi, signore, signore delle schiere, distruggimi i nemici come loro distruggono me. Siamo presi al laccio della loro superbia, siamo come lumache che consumano camminando, spezzi i loro denti, non vedono più il sole, come aborto di donna, non vedono la luce, colpisci, li disperdi, li finché nel il sangue dell'empio mi lavero i piedi, il sangue dell'empio mi lavero i piedi, così l'angelo coglierà la vigna nel vino dell'ira. Lili pigerà, Lili vendemmierà, finché il sangue arrivi fino al morso. Per 40.000 cubiti, 60.000 stasimi, bruceranno nel lago di zolfo. La città della gloria non sarà per chi non ha creduto. Perciò non trattare la tua fede, non trattare. Intanto nei giorni che hai contati, nei giorni che hai contati, nel niente sotto il sole, nel niente sotto il sole, nel niente sotto il sole, ammascellate l'asino, difenderai il tuo cuore. Ammascellate l'asino, difenderai il tuo cuore. Ammascellate l'asino, difenderai il tuo cuore. Ammascellate l'asino, difenderai il tuo cuore. Perciò non trattare, non trattare, non trattare, ammascellate d'asino, non trattare, non trattare, non trattare. E allora abbiamo ascoltato Vinicio Capossela, Non trattare, insomma, pezzo straconosciuto. Adesso però preparatevi, cari e care, che qui c'è stata una commistione di idee. E allora il passaggio dei prossimi tre pezzi che ci accompagnano alla fine di questa trasmissione sono scelti davvero a cazzo di cane, come direbbe Ferretti. Cazzo di cane, naturalmente si scrive K A A R. Il prossimo pezzo è Bartali di Conte Paolo, come c'è scritto qui su un po', semplicemente Paolo Conte, che Paolo Conte naturalmente si scrive K A A R. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai: dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz. E allora, con qualche secondo di ritardo per l'attacco, insomma, si fa quel, come dire, quello che state per ascoltare, è una cosa abbastanza particolare a mio avviso. Il passaggio era strano e ve l'avevo detto. Lui è Luciano Berio, dal brano, dall'album Section 1, che in realtà non si dice così, però purtroppo sono carente nel tedesco. Luciano Berio, vabbè, chiaramente uno va su questi motori di ricerca variopinti e scrive Luciano Berio e trova un sacco di roba. E, ahimè, non c'è più Luciano Berio, purtroppo nel 2003 è morto, però è stato un grande compositore italiano d'avanguardia, pioniere anche nel campo della musica elettronica, un po' il discorso che trattavamo anche due puntate fa su Salute e Felicità. Allora, questi sono 6 minuti e 39 di Luciano Berio, l'album è Section 1. Oh! saison 16. Ça, lui, aussi orageuse. Ça, plus orageuse de la saison 16. Allora, abbiamo ascoltato anche noi qui stupefatti Luciano Berio, vi ripeto il nome è Luciano Berio e non vi faccio lo spelling, dai, che sennò è esagerare. Luciano Berio, ci chiedevamo, cioè, insomma, è un artista italiano innanzitutto, nato a Oneglia, si chiama il paese. Liguria. Centro industriale ligure nel 1923. Certo, perché se no sembra che è morto, che ne so, d'eroina o l'overdose che aveva 20 anni. No, no, Luciano Berio nato a Imperia e muore a Roma il 27 maggio 2003. È un compositore italiano d'avanguardia e ve l'abbiamo detto anche prima, insomma. Un artista che sicuramente andrebbe, come dire, conosciuto molto, non molto di più, dai, va bene, però di più dei Blu Vertigo. Però va bene, se è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita, vi leggiamo semplicemente per farvi capire chi è Luciano Berio e quanto, insomma, sia importante, possa essere interessante, se non importante, conoscerlo. Se scrivete Luciano Berio su Google, chiaramente potete trovare opere di Luciano Berio, concerti. Luciano Berio ha fatto concerti, una lista di 15, musica orchestrale, sequenze, musica da camera, musica per strumenti a tastiera, musica vocale, musica elettronica, musica teatrale, opere, arrangiamento, orchestrazione e completamenti di musica con altri compositori, ma soprattutto forse la cosa più interessante di questo artista, che dal 1925 al 2003 ha tirato fuori l'ira di Dio, è che, forse ve lo spiego anche di più, è che lui ha due onorificenze riportate su Wikipedia. La prima è Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La seconda, Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Cultura e dell'Arte. Forse se mettete il primo elenco con il secondo capite chi era Luciano Berio. Siamo davvero in conclusione, stiamo per lasciare... no, non credo proprio. E stiamo per lasciarvi a Out of the Shell. Se andate su transizionedifase.org potete trovare il nostro palinsesto. Siamo sempre ben accetti a partecipazione e collaborazione di chiunque gli piaccia un po' con la radio. Questa era Salute e Felicità. Ancora una volta, visto che sappiamo bene che ci sta ascoltando, c'è un saluto a Pink Moon che trasmette lunedì e che non mi ha messo questa canzone qualche settimana fa. Saluti dall'ospite speciale. Ciao! Direttamente dallo stadio di San Siro. Sembravi Vasco Rossi. Questi sono Iele le Storie Tese e il brano si chiama Il Congresso delle Parti Molli. Sta svolgendosi nell'organismo il congresso delle parti molli, un convegno che non mancherà di fare rumore. Tutti gli organi del corpo umano sono pronti per la votazione, la mozione, la sostituzione della direzione. Sono presenti fra gli altri la milza, lo stomaco, le reni, laringe, faringe, meningi, mammelle, polmoni, polpacci, budelle e il buco del membro che sta parlando. Gli interventi sono concordanti, tutti vogliono il buco del membro, una scelta che non mancherà di fare rumore. Mai, mai e poi mai l'avrei detto mai che un buchino potesse guidare il mio corpo bellissimo. Per darti un'idea, sono appena di sotto di Brad Pitt, ma più bello di Johnny Depp, che moltissimi chiamano Johnny Depp. Però io ritengo che il buco del membro non sia il candidato giusto per la guida del corpo. Produce la gente, ma è privo di mente, incarna le peculiarità tipiche del testa di cazzo. Se il buco del membro comanda le membra, finisce che ho sempre il corpo priapissimo. Il polifemo della fertilità vince ed io non posso farci niente. Metapino, sono alla mercé di un foro incompetente. Sento gli ordini partire da laggiù, dal basso ventre. Mentre passeggio in città sento un impulso per le donne di qualsiasi modello, capelli, statura e classe sociale. Mi sembrano tutte donnissime, sì sì sì sì. Ci vorrebbe un minuto di sosta perché sono vago, però non mi basta e temo la morte per gioia. Ai ai ai ai, rischio l'aldilà, quando invece si sta così bene nel mondo dell'aldilà. Parafrasando Sergio Endrigo dirò che se per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare tutto ci vuole tutto. Ormai ti ho accettato che forse sei meglio tu dell'encefalo. Valutando i risultati della sfida endopolitica si scopre la verità, vince il bus del member, il buchino delle libertà, buco con il membro intorno, più bello di Johnny Depp, o Johnny Depp, o Johnny Dive. O Johnny, o come dirsi voglia, ma per gli amici è il bus del member. gioco con la Fender. E allora, a quanto pare ci tocca fare l'ultimo annuncio. Pa-pa-ra-da. Allora, va bene, a quanto pare non siamo sicuri che Out of the Shell stasera ci sia collegato, purtroppo non date a segni di vita, ma i fedeli ascoltatori e ascoltatrici di Transizione di Fase sanno che la connessione non è una cosa così stabile, ma bensì precaria. Allora avrete modo di ascoltare per la vostra grande felicità una overlist, una postlist, i pezzi che stasera avremmo voluto mettere, ma siccome si parlava di musica italiana non si poteva fare, e quindi un buon ascolto a tutti e a tutte, da Salute e Felicità col suo ospite, che già la seconda volta che ci penso e che si avvicina qui alla questione. I pezzi che ascolterete sono Björk, Oceania, The Cinematic Orchestra to Build a Home e Seoul delle Amina. Li hai visti live? Cinematic Orchestra non li ho visti live, no, perché dovevo studiare per l'esame. Gigi, cioè l'elettrode non sono venuto perché dovevo studiare. Sì, anche i Cinematic Orchestra, tale 10 giugno, hanno suonato all'auditorium. Dovevo studiare, tu l'hai visti? Io no. E allora, se non sbaglio, dovevamo lavorare qua e dovevamo studiare. Poi tu sai, penso che il tal Pink Moon li abbia visti, e quindi se è ancora all'ascolto su Salute e Felicità ci raccontasse lunedì prossimo e ci facesse sapere anche in privato. Fatto sta, vi ripeto, Björk, The Cinematic Orchestra e Lea Mina. Un saluto a tutti e a tutte.

By the cracks of his skin, I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held. Thank you.